potuto cantare, mea loca, mea amore, somos los mejores. Te place mai, au mele mele, salca shagleli mele, tanshewi urasi ale. Catania, che buena parte, la fiesta magnifica. Thank you.